Blu Radio. Rock Wave. L'onda del rock. Eccoci qua, dopo l'intervista telefonica con Margherita Pirri, siamo dal, un'altra volta live, ma live veramente nel senso positivo del termine. Buonasera ai Rashomon, che vengono da Reggio Emilia, da Modena, scusa, ho sbagliato, da Modena. Modena, esatto. Avete fatto un buon viaggio, sì? Sì, sì, sì, sì, buonissimo. Io vedo gli strumenti, sicuramente avete fatto un ottimo viaggio, perché quando vedo certi strumenti mi fanno piacere, esattamente. Poi quella chitarra un po' alla Dire Straits è una cosa molto bella, vero Simone? Cosa sì, dici? Sì, sì, molto bella, ma ho preso tanto in giro perché, vedi, c'è questo cerchio tutto forellato che ricorda molto uno scolapiatti, esatto, sì. Una scolapasta, una scolapasta. Però suona bene. Però sì, ha il suo perché, ha il suo suono ovviamente metallico, perché è tutto di metallo. E... Allora, sta parlando Simone Galassi, che è il chitarrista. Con me, davanti a me, c'è Keire Valamaghe, giusto? Sì, ma anche solo Keire. Keire, meglio Keire, esattamente. Che praticamente sei te che hai inventato la band, hai deciso di fare questa band oppure no? L'idea come è partita? Poi c'è anche Matteo, che è il batterista Matteo Fiorini, che ci sente via internet. Virtualmente. Virtualmente è presente anche lui stasera. Purtroppo. Quindi com'è nato il progetto Keire? Ma il progetto è nato appunto come un appendice del mio progetto da cantautore. Quello che avevo prima praticamente. E ci siamo trovati io e il batterista, avevamo voglia, io e Matteo, che purtroppo non è presente, avevamo un sacco di voglia di affrontare questa strada delle formazioni minimali, delle formazioni che adesso stanno andando tantissimo senza il basso, quindi sono l'idea di fare di senza il basso, un gruppo rock senza il basso, è un po' difficile concepire un gruppo rock senza il basso, ok? Noi, come dire, dai White Stripes, di cui ci siamo innamorati in poi, non abbiamo più potuto vedere il basso in una formazione rock. Allora, avete deciso questo. Sì, sì, assolutamente. Quando la musica è così Qualcuno ha giudicato il blues torrido, il vostro, proprio un blues potente. Anche non è proprio torrido, però qualcuno l'ha scritto un blues torrido, ma senso qualcuno positivo. Ha scritto anche che è un nuclear blues. Noi non siamo pro-nucleari, io questo voglio. No, ci assolutamente tengo. No, nessuno è nucleare qua dentro. Assolutamente. Assolutamente però, no. Okay. Cioè, nucleo nel senso di potenza, voleva intendere quello. Forse sì, probabilmente. Assolutamente sì. Quindi allora è partito quell'idea del non bassista praticamente. Sì, siamo partiti con questa idea di minimalismo totale per trovare proprio la radice sanguigna e quindi siamo partiti chiaramente dal blues. E tu che sei partito da pianista di Cisco, che era un ex modello di Ramblers. Sì, beh, adesso io non sono proprio partito da lì, però insomma, è stata un'esperienza importante. Hai partecipato al tour di Cisco, cioè hai fatto parte, insomma, possiamo dire questo. sì, certo, è stata un'esperienza è stata la gavetta che serve, no? Assolutamente, serve e continua a servire. Benissimo, quindi sei partito da là, avete formato assieme al batterista questo nucleo e poi è arrivato E poi è arrivato questo angelo Salvatore che ha dato un senso ai nostri deliri di onnipotenza. Benissimo, quindi progetto che nasce, cioè abbastanza recente, novembre 2010, non è vecchio il progetto. No, assolutamente, difatti, però in un anno effettivamente devo dire che abbiamo di tappe ne abbiamo bruciate parecchie. Siamo andati via svelti, appunto perché eravamo in pochi. Hai detto una cosa giusta, perché eravate in pochi. Allora, la prima cosa che si deve fare è si deve cominciare a suonare. Dove? In qualsiasi parte? Come girava il vento? Beh, certo, la prima cosa è assolutamente fare un disco. Quindi noi prima abbiamo Siete riusciti a fare un disco con etichetta indipendente? Come avete trovato l'aggancio, il sistema? Beh, che non è semplice. Una cosa che abbiamo fatto e abbiamo deciso di fare sono stati i concorsi. Però poi magari lo possiamo sapere Simone. Anche da Simone. Parliamo di questo premio, primo premio da olio. Parli molto bene. Questo sì, primo premio da olio del 2011. No, ovviamente, diciamo che partendo da zero e dicendo di volerci far conoscere, è ovviamente la strada più ovvia e anche facile, diciamo, è comunque iscriversi a dei concorsi nel quale farsi comunque conoscere, farsi sentire. E proprio attraverso di questi, quando partecipammo al premio da olio, che è un premio molto importante, dobbiamo sottolinearlo. Esattamente, proprio lì siamo stati notati da, diciamo, questa etichetta che ci ha fatto una proposta. Lo scafandro praticamente. Lo scafandro, esattamente. E dopo niente, da lì abbiamo cominciato comunque a ci hanno sentito altre volte, si sono molto comunque complimentati con noi, si hanno visto qualcosa di interessante e abbiamo cominciato comunque, diciamo, questa collaborazione. E questo andrà tutto bene, che è il titolo del disco, è molto blues, parte dal blues, poi si dirama in tante altre cose, ma parte dal blues, il blues è la vostra caratteristica, torrido, non torrido, nucleare o non nucleare, sempre blues. Sì, esattamente, no, il blues diciamo che posso dire davvero ci ho un po' messo lo zampino io, perché sempre... sei un bluesman. Sì, perché io comunque vengo da un'esperienza comunque di tanti anni di cover band di rock anni 70 e quindi nel rock anni 70 sono state comunque c'è sempre stata la radice del blues. Ho sempre amato i vecchi bluesman degli anni 30 in poi e io ho sempre suonato comunque blues, diciamo. Quindi avendo questo stampo ormai impresso dentro di me, l'ho comunque trasmesso anche a loro. Cosa hai trasmesso a Katie o a Matteo, che blues non ero proprio di blues dipendenti, o sì? Ma noi eravamo dei rock dipendenti. Cioè, eravamo appena riusciti a uscire dal vortice, dal tunnel. Ho capito. Ci stavamo disintossicando, poi è arrivato questo qui. E te l'hai messo dentro, praticamente. Ci hai portato dentro. No, io devo dire, io personalmente, sì, ma poi anche Matteo, ci stavamo dal blues, diciamo, andavamo verso cose come... gente che ha usato il blues come un veicolo per poi dire altre robe, tipo Beck. Certo. O altri... Quindi dal blues come quel punto di riferimento per poi spaziare, esattamente, delle soluzioni, ibridarlo con molte altre cose, effettivamente. Però tornare a questa radice forte, magari ancora più sporca, ancora più grintosa, con questi pochi strumenti, effettivamente è stato un esperimento che ci ha talmente conquistato che abbiamo detto no, dobbiamo continuare così. Ma è difficile suonare con questi pochi strumenti, che non sono pochi, ma pochi nel senso, levando via il basso, che è la funzione ritmica di una band, è abbastanza arduo il discorso, Simone. Sì, in effetti è la cosa quella che riesce un po' difficile, e soprattutto all'orecchio di chi ci ascolta, secondo me, la prima volta, perché... uno è sempre abituato ad ascoltarne la musica di tutti i giorni, il basso che è il basso fondamentale. È presente, certo, esatto, fondamentale. Certo. E in un certo senso, se si vuole guardare da un punto di vista, anche la nostra musica la senti che è carente di questa cosa, però è proprio il marchio di fabbrica, il punto di forza, diciamo, quello che usano comunque tutte le band a cui noi ci siamo ispirati. White Stripes in testa, White Stripes, Black Keys, Bud Spencer, Blues Explosion, che sono tutti gli italiani, i nostrani, Bud Spencer, insomma. John Spencer, Blues Explosion, John Spencer, qualcuno John Spencer ci odierà, perché giustamente, no, John Spencer, sì, d'accordo. Ovviamente da chitarrista bruciato sono sempre più guardato molto, scusami Kerry, se mi sono permesso di citare prima Bud che John. Quindi praticamente questo è il discorso. Sì, quindi dovete, esatto, la mancanza del basso vi ha fatto raddoppiare le energie, perché dovete raddoppiare le energie per far dimenticare nel senso positivo il basso e portare avanti un discorso musicale vostro, non ancorato a certi stilemi, vostro e basta, questo è importante. No, assolutamente. E poi in realtà si è recuperata proprio la pulsazione di basso. È la pulsazione, esatto. Quella forte, quella lì, cacchio, basterebbe una batteria, anzi forse un giorno l'incenseremo. anche lui, è fuori la batteria, no? Proprio, riduciamo al massimo il discorso. E poi effettivamente c'è un brano nell'album che era nato come praticamente batteria e voce, solamente e batteria e voce. Poi ho detto no, io non voglio essere messo in disparte, voglio dire la mia. Ho capito. E quindi... Ok, adesso facciamo una cosa molto semplice, apriamo la nostra finestra, che facciamo chiaramente tutti i mercoledì, e non soltanto i mercoledì, anche negli altri giorni in cui facciamo il live. Primo pezzo da disco che abbiamo scelto, ti ricordi che traccia che hai scelto? Ti ricordi? La traccia, mi dicono Agostino, la traccia numero 4. Sì, meglio rinunciare, un pezzo perfetto. Che... Me lo puoi spiegare un momento, dai. Devo spiegarlo? Lo spieghiamo dopo, sentiamo. Sì, io preferirei. Lo sentiamo, dai, ok. Ora sii sincera, dimmi onestamente che vuoi farmi male. Oppure ci hai pensato ed hai concluso, meglio rinunciare. We'll be right back. Blu Radio. Rock Wave, l'onda del rock. Questo è proprio un blues torrido, torrido anche come, come impostazione musicale. Con che aggeggio avete fatto questa voce filtrata, Katie? Me lo dicevi a microfono spento, se lo dici a microfono aperto. Beh, certo. Il nostro fonico di fiducia, nonché quello che ha registrato il disco. E Davide eccetera, Cristiani. Davide Cristiani, di Bombanella Soundscapes. Che è stato registrato a Maranello, tutti ricordo Maranello per la Ferrari. Per la Ferrari. Ma c'è anche uno studio di registrazione. Ma dovrebbe essere più famoso per lo studio di registrazione, che è veramente vedi, valido. Vedi Agostino, Maranello come Ferrari, ma c'è anche uno studio di registrazione. Dimmi, e niente, lui praticamente ha mandato in saturazione un mixer analogico. Abbiamo fatto molte robe, molte registrazioni con questi distorti proprio da mixer analogico. E sono cose, vengono fuori delle sonorità molto belle, molto, sì, molto particolari, caspopiche, cioè strane, complesse, un po' fuori dalla normalità. Sì, si cerca un po' l'esasperazione del suono. Quindi blues torrido, questo è proprio un blues torrido, possiamo dirlo assolutamente. L'idea di questo, dell'arrangiamento è sempre di Davide Cristiano o è vostra l'arrangiamento? Beh, l'arrangiamento è nostro, però chiaramente in fase finale vengono fuori tante, cioè dal fonico che ti segue, se è fantasioso come Davide Cristiani, vengono fuori tante soluzioni, possono venire fuori tante soluzioni. Dal vivo come hai fatto un pezzo simile? Con della gran cattiveria, della cazzimma. C'è il batterista Matteo che pesterà come si deve, o no? Tanto, no? Cacchio, pesta come un dannato. Infatti, forse è meglio che oggi non è venuto qua. se poteva fare una piccola percussione, dava l'abilità. Cioè, quindi è un pezzo che inizia, con cui iniziate il concerto. Questo qua è un pezzo che è centrale nella lista, nella scaletta. Beh, di solito sì, è tra i primi due. Primi per scaldare l'ambiente, sì, mi pare tutto. Cosa dici, Simone? Come ti comporti in questo pezzo dal vivo con la tua chitarra? Questo pezzo mi comporto come lo sentite suonato sul disco. Assolutamente fuori. Cioè, sì, no, praticamente suoni distorti al massimo. E poi ovviamente per sopperire alla mancanza del basso si usa sempre un effetto che sdoppia la chitarra su delle note basse. Che si chiama octaver, quindi... È un aggeggio praticamente. Sì, è un effetto a pedale. Che è azionato, ti riproduce il suono della chitarra, però un'ottava sotto, quindi è come avere un po' un basso che ti accompagna, quindi il suono prende molto più corpo, molto più distorto e riempie un po' tutto quello che è la musica, comunque la melodia del pezzo. Siete molto più cattivi di Ken e Dita, visto che Ken e Dita faceva una cosa molto molto avanti, cioè un po' di anni 60, un Roddy Game, ve li ricordate, Kennedy Dieter? Certo, blues, anche quello facevano blues torrido, però facevano un altro genere assolutamente, però tanti hanno cominciato dai Kennedy a far musica blues in una certa maniera, abbastanza fuori dagli schemi, erano grandissimi musicisti. Sì, si porta avanti un discorso quindi di potenza. Adesso che potenza acustica ci fate sentire, visto che sentiamo dal vivo in questo momento? Che pezzo? A noi ci piace iniziare sempre con Mamma è un brutto mondo. Che è anche il pezzo che avete vinto l'olio. Sì, in realtà è un pezzo che ci ha dato tante soddisfazioni a livello di concorsi. E poi diciamo una cosa che tu mi hai detto a microfono spento a proposito della partecipazione a un simposio, sei stato a Pistoia Blues. Sei stato solo te. Però in realtà eravamo è una partecipazione che abbiamo vinto, ha vinto tutto il gruppo, per motivi diversi ci sono potuto andare solo io. Hai fatto la partecipazione te. Però sì, insomma, abbiamo vinto questa partecipazione a un seminario tenuto da Paolo Benvenu, quindi sono stato una settimana con Paolo Benvenu che ci ha spiegato diverse cose e abbiamo parlato molto di musica, di composizione di testi. Ed è stato veramente un bel confronto, e una cosa che mi ha, e poi ho riportato l'esperienza agli altri, arricchito tantissimo. E sì, devo dire che lì si vede tutto lo spessore anche di Pistoia Blues, quindi... Ottimo, una cosa molto positiva. Quindi praticamente Paolo Benvenu ha fatto da insegnante praticamente. Sì, sì, era proprio, era bellissimo. Cioè, avrei sempre voluto andare a un corso tenuto di musica d'autore. Certo. E quello era un corso di musica d'autore. Certamente. Adesso sentiamo il pezzo allora dal vivo con i Rashmon, assolutamente stasera, live ore 22:32 di oggi mercoledì 22. stretto. Oh mamma, mettimi a letto. Oh mamma, cantami ancora. Oh mamma, è un brutto, brutto mondo. Bellissimo, un pezzo potentissimo dal punto di vista musicale, decisamente forte, anche dal punto di vista strumentale, begli effetti. Simone ha fatto un ottimo effetto con la sua chitarra e tu hai filtrato la voce col come si chiama? Il megafono, con una certa potenza, non la potenza che avevamo provato precedentemente, l'hai un po' abbassato, chiaramente. Certo. Cioè, dove è un pezzo molto di impatto, forte, dove descrive una certa situazione di questo mondo che va a rotoli, praticamente. Sì, sì, cioè, di fondo proprio in tutto il disco è permeato da questa sensazione, da questa paura anche. Però effettivamente dietro ogni canzone c'è molta speranza, molta... un pizzico di speranza, sì, di risalire la china, esatto, di ritrovare l'armonia delle cose. Partendo dal basso si può solo salire. Esattamente, partendo dal basso si può solo salire, hai detto una cosa giustissima. Il disco è stato inciso in quanto tempo, Katie? Chiediamolo a Simone, perché io non Simone, ti ricordi quanto tempo? È stata una roba veloce o è stata una roba un po' più pesante? Cioè, le sessioni non sono tutte riuscite bene, quindi ha dovuto riprovare più di una volta certe cose, certi schemi, eccetera. Ma no, diciamo che registrare le tracce in sé è stata una cosa abbastanza veloce. Decisamente veloce, sì, perché comunque in un paio di giorni, neanche interi, comunque abbiamo fatto tutto. Proprio sì, dal mattino fino al pomeriggio, tipo le 5, le 6 del pomeriggio, si è montato tutto quanto e fatto tutte le sessioni per quanto riguarda il disco. la cosa un pochino più lunga e laboriosa è, comunque è venuta, sì, è venuta dopo il messaggio. Perché comunque non eravate soddisfatti o perché certe cose? Ma perché comunque necessita di tanto, tanto lavoro, tanta attenzione, tanti ascolti, e poi ovviamente visto che cerchi di fare un bel prodotto lo curi nei minimi dettagli, quindi andare a trovare proprio le sfumature, il suono, le, come si è letto prima, cioè comunque fare varie prove, sporcare certi strumenti o se no dopo andare a cercare anche delle soluzioni un po' strane, tipo non so, fare suonare delle sveglie o dei rumori inusuali. Stasera poter avete portato un piano giocattolo? Sì, sì, sì, pianoforti giocattoli, cioè comunque molti effetti sono stati dati proprio da delle cose proprio meccaniche inventate lì sul momento, che non compiaciuti da una cosa magari più elettronico digitale l'abbiamo soppiantata con delle cose. Il pezzo l'avevi scritto te, Kiri, io l'avevo scritto assieme. Sì, beh, di solito i pezzi li scrivo io, che appunto faccio, diciamo, il cantautore della compagnia, e della compagnia. Poi li porto in studio, in saletta, e li riarrangiamo. Spesso diventano molto più torridi. Più torridi. Per utilizzare questo superlativo. Cioè, esatto. È un live nel live, praticamente. Sì, beh, mi piace pensare a questa cosa dei pezzi in continuo cambiamento, che vivono proprio, che hanno una loro vita, quindi iniziano, partono come delle ballate, finiscono come delle E come, robe, come siete riusciti a conquistare il premio d'olio con questo pezzo? Secondo voi per qual motivo li avete conquistati e avete vinto il premio? Questa è una domanda difficilissima. Cosa avete visto nelle facce dei giudici quando hanno dovuto giudicare il pezzo? Erano atterriti. No, ma sono stati contenti, era positivo, insomma, questo voglio dire. Sì, beh, immagino che semplicemente siamo riusciti a conquistarli. Il nostro messaggio è passato, insomma. Quanti pezzi vi hanno fatto suonare? Solo questo praticamente? Due, no? Due o tre. E quanti gruppi eravate che praticamente... Penso forse 16 gruppi. 16 gruppi, cioè, c'è stata una scrematura precedente. Sì, sì, sì. C'è stata delle selezioni, eccetera. Sì, varie selezioni, come poi in tutti i concorsi. Cioè, tutti i concorsi praticamente. Poi poi hai citato un altro concorso, Rock Targato Italia, mi pareva. Rock Targato Italia, esatto. Com'è andata là? Anche lì ne siamo usciti vincitori. Ovviamente questo qua, però, diciamo che alla base di tutto un'Italia che ha partecipato sono arrivati praticamente a vincere 8 finalisti. Ah, ho capito. Quindi non c'era il vincitore assoluto, ma comunque siamo stati 8 vincitori. Però direi che è sempre un bel traguardo con tutto un'Italia che partecipa, insomma, essere tra 8, tra questi 8. Non è mica una cosa semplice, è una cosa difficile, decisamente. E poi questo è stato il trampolino di lancio per, come abbiamo detto precedente, a trovare l'aggancio con la Scafandro e quindi con l'etichetta, eccetera. Esattamente. Una via sì, molto importante, perché purtroppo bisogna far così adesso. Riuscire ad emergere in determinati concorsi, riuscire a suonare, farsi sentire, farsi vedere, poi trovare qualche manager, qualche produttore, qualche uomo di spettacolo che bene o male riesce a farvi la strada, anche se però la Scafandro vi ha dato solamente dal punto di vista della visibilità, dal punto di vista della promozione praticamente. In effetti lo Scafandro in quello ci ha appoggiato tantissimo. Poi il resto l'avete fatto tutto voi. Di solito funziona così. Cioè produzione praticamente... Ormai funziona così per chiunque, insomma, certo. Fai tutto da solo. Fai tutto da solo, qualcuno dice molto bene, qualcuno dice beh un po' meno, dipende dai punti di vista, però la voglia di fare, di incidere un disco era tanta, questo sì, questo è chiaro. Sì, certo. Bei tempi quando c'era la Caselli, che trovava, vedeva un gruppo che gli interessava. Ma c'è ancora la Caselli fa ste robe? Cioè. Beh, ma adesso è stato, cioè mi avviso, tutto soppiantato da tutti questi reality, X-Factor, amici. Adesso escono tutti da lì i nomi, nel senso che... Non c'è più il talent scout che cerca i gruppi che... Sì, cioè, secondo me è un po' andata persa questa cosa negli ultimi anni. Nel circuito indipendente i gruppi si fanno di fatto da soli, poi trovano degli agganci, certo, di gente più arrivata che li spalleggia, e allora le cose sicuramente possono diventano più facili. Però Tutti si fanno da soli. È difficile. Ormai c'è poco da fare. Si fanno tutti da soli. Si fanno un culo così. Esattamente. Ok, allora sono le 22.44, 22.45 quasi. Sentiamo un altro pezzo da disco. Che traccia abbiamo fatto, Agostino? La numero 3. Sentiamo la numero 3 e poi ne parliamo, ok? Radio Rock Wave, l'onda del rock. Abbiamo sentito il pezzo, che devo poi ripetere il titolo. Maledetti. Ecco, no, ricorda qualcosa degli Area oppure no? Gli Area, beh, gli Area li adoro, ma ecco, non so se dentro c'è finito qualcosa, no, per sbaglio. Anche loro avevano citato un Maledetti un po' di anni fa. Davvero, gli Area? Sì. Mi sfugge. Ma gli Area era un grande gruppo che faceva blues anche loro, non dico torrido, ma blues alla... praticamente sotto l'influenza di Demetrio. Demetrio era un genio. Ah beh, sì, sì, certo. Conoscete gli Area, no? Chiaramente. Io molto bene. Lui un po' meno. Quello non lo so, quell'essere... No, non li ho, quell'infedele. Non li ho approfonditi tantissimo, però comunque... Erano molto sperimentali gli Area, assolutamente. Sperimentavano spesso e volentieri, di tutto sperimentavano. E Demetrio è andato ben oltre la sperimentazione, soprattutto con la voce. Cosa certo, dici? Cantare la voce è bellissimo. Quindi la vostra ispirazione dove nasce musicalmente? Dove possiamo avvicinarvi musicalmente secondo voi? Ma l'ispirazione musicale. Ma in realtà musicalmente... L'input dove è partito musicalmente secondo voi? Ma secondo me ognuno di noi parte veramente da punti molto diversi. Ok, e poi parte dal suo background e poi lo porta effettivamente. Ma quando siete in studio di registrazione, in studio, tu porti il pezzo. Sì. Simone porterà un riff, Matteo porterà un giro di batteria. Come vi amalgamate tutto assieme? Al di là del fonico, al di là di tutto, proprio adesso, un giorno tu vai in studio, hai un pezzo nuovo. Come vi trovate per amalgamarlo, per darne una colorazione poi? Principalmente secondo me la cosa migliore, cioè noi di solito lo proviamo e basta, cioè con gli elementi base, tipo, quali sono gli accordi? Certo, gli accordi, gli elementi base, nonostante tutto abbiamo ancora gli accordi. Esatto, allora ci sono degli accordi, sì, oppure no, ce n'è solo uno, è un pedalone dall'inizio alla fine, una tonalità e basta, ok, poi... La seconda cosa più importante di tutte è la pulsazione, cioè l'emozione, cosa significa? No, la pulsazione intendo ritmica. Ah, la pulsazione ritmica, perfettamente. Quando quella è sicura, vuol dire che è cosa e la voce funziona su quella, secondo me dopo ci si può sbizzarrire, allora ci si diverte, si va a pescare, si pensa, ma potremmo metterci quella cosa là, quella cosa che senti da quella parte là. Però prima di tutto, secondo me, l'importante è creare una pulsazione che convinca tutti. Quindi dobbiamo, portando il pezzo, la prima cosa che si cerca, secondo me, è una pulsazione convincente. E poi, quindi il pezzo, se quello trovato l'aggancio giusto, allora si può andare avanti. Sì, esatto. Quindi i pezzi nascono così, insomma. Sì, i pezzi nascono nella mia cameretta e poi in saletta iniziano a nascere davvero quando troviamo questa famosa pulsazione. Nella tua cameretta, oltre ai pezzi di questo disco che abbiamo sentito, adesso stiamo ascoltando, quanti pezzi sono fermi nel cassetto nella tua cameretta? Ah, ormai saranno più di 300. Siamo più di 300. Margherita, prima che abbiamo intervistato, ne aveva 200 fermi ne ha utilizzati solo 13. Io ne avevo 200 tipo... 3 anni fa, quindi ormai adesso nel disco ne abbiamo utilizzati quanti tracce sono? 10, ecco, e abbiamo ancora altri 290, allora insomma. Ma, però sono tutte tutti momenti praticamente, non sono pezzi finiti o sono pezzi finiti? No, sono anche pezzi finiti, assolutamente finiti. L'unico problema, ma il vero problema adesso per me è quando penso a un disco non di dire qualcosa che ho già detto, quindi di scriverne di nuovi. Ah, ho capito, cioè di andare avanti. Certo, cioè tutto quello che si scrive e si mette nel cassetto può servire, ma solamente per andare avanti. Simone, la pensi lo stesso anche quindi. Te? Ma io questo qua mi lasci basito, non sapevo di questi tuoi 300 pezzi. Abbiamo scoperto gli altarini. Sì, perché io gli porto sempre gli ultimi due che ho scritto. Gli ultimi due o tre. Sì, io so delle ultime cose che poi... Diciamo che era un po' un percorso guidato, no? Lui arriva col pezzo già pronto, ha già tutti i giri, gli accordi. Fai così, fai quel girettino, no? La chitarra, metti i suonini un pochettino. Non è mica vero, non ci credere. Mi guida, no? Poi dopo io piano piano ci metto il mio zampino e le faccio come... Insomma, rielaboro, però sì. Come mi disse il vecchio chitarrista che c'era tempo fa, diceva è molto divertente perché è un percorso guidato. In effetti è vero. Devo dire che mi diverto molto perché mi danno tutte queste direttive che poi dopo mi diverto a non fare niente di quello che gli viene detto. Non fare niente di quello che mi viene detto, esattamente. Benissimo, adesso le direttive ci sono, adesso dobbiamo suonare che cosa? Allora facciamo Schema Spray. Schema Spray. Ok, facciamo quello. Vabbè, un pezzo. Questo è un pezzo che nel disco non c'è. Quindi lo suonate adesso. Possiamo considerare un inedito. Noi vi ringraziamo che per noi lo fate sentire adesso. Cavolo, ci sfuma l'occasione di portarlo a Sanremo. Esatto. Beh, non si sa mai. Per la prossima, abbiamo il Sanremo 2013, no? Quindi non c'è problema. Sì, sì, adesso vanno. Adesso li suonano. Lo suonano, sì. Facevo poco, si soffocava nell'aria densa di strutto. Odiavo quasi tutto. E sembravamo più grossi nei nostri bomber verde militare. A metà strada tra le medie e l'asilo, la scuola elementare. Ci sentivamo grandi per mettere i costumi, ma eravamo solo una banda di ragazzini armati di schiuma spray per le nostre compagne e per le loro lagne. Quando guardavo attorno, oh, era tutto là. Chissà se fossi stato un altro, avrei giocato a basket da professionista, mi sarei sposato con Giulia, adesso vivrei in un'altra città, in un'altra città. A poco dimenticai di andare alle lezioni di catechismo. Grazie ai ragazzi più grandi imparai che cosa vuol dire nonnismo. Balbettavo le mie storie, certe erano vere. Oh, ora che mi guardo indietro, davanti agli occhi mi passano intere primavere. Potrei ricominciare, oh, ma sai che noia. Devo ipotizzare, avrei finito gli studi, mi piacerebbe il calcio, avrei un lavoro sicuro, un cane di nome Pigna. Ditemi che così l'avrei chiamato Pigna, un gran bel nome, sì. Ok, sembra un pezzo punk più che un pezzo blues, secondo me. C'ha l'attitudine al punk, essendo molto veloce e molto coinciso, un po' è un testo anche che ha l'attitudine del punk, secondo me. Cosa dici? Qualcuno ti ha scritto, probabilmente. Ok? Ok. Vediamo. Benissimo, sì, sì. Adesso si sente meglio. Benissimo, questo pezzo si intitolava, lo ripetiamo il titolo? Schiuma Spray. Schiuma Spray parlava delle vicende giovanili, praticamente. Sì, è un pezzo che parla appunto... autobiografiche? Assolutamente, non c'è un pezzo che non sia autobiografico. In qualche modo. Sì, da costruzione, cioè dell'andare giovanile tuo praticamente. Ma in realtà di un circoscritto periodo, periodo, a qualche giorno, che sono i famosi giorni del carnevale, almeno, esattamente. Che è stato giovane negli anni 80, o diciamo no, nei primi anni 90. Mm-hmm. Che aveva 11 anni, veniva bullizzato sicuramente, o gli può essere capitato di essere bullizzato, nei giorni del sì, nei giorni del carnevale, con questa irritante schiuma spray, irritante anche proprio a livello dermatologico. Sì, sì, esattamente, dava fastidio, dava fastidio. Sì, sì. Uno scherzo un po' di cattivo gusto praticamente. Beh sì, adesso non so se va, se vada ancora, però... Una volta si usava, quando c'erano le feste universitarie, non so se Agostino si ricorda, c'erano le cosiddette feste universitarie e anche loro, cioè gli universitari, per scherzare, prendevano anche la schiuma e praticamente rovinavano spesso e volentieri i vestiti di molta gente. Una volta si faceva così, erano... rovinavano, scherzavano più che rovinare, si usava questa schiuma, ma si parla ancora un po' di tempo fa, adesso le cose sono cambiate, non si fa più, però era uno scherzo, universitario, il giorno delle matricole praticamente era così. Esatto, esattamente quella stessa schiuma ha causato tanto dolore nel mondo. Ovviamente io ero il bullo e che era l'arbullizzato, lo prendevo, lo riempivo di schiuma. Era più giovane di te forse per quello. Esatto, di schiuma spray, anzi che poi usavo la schiuma da barba che era quella che non veniva proprio più via. Esattamente, quella era tremenda. Bene, sono le 23 esatte, sai caro Chieri e caro Simone, alle 23 c'è un piccolo... gioco che noi facciamo, i famosi 5 dischi da portare su un'isola deserta. Stasera siete, non siete in, siete in due, non siete in tre, quindi Matteo ci sente via internet, potrà anche scegliere così idealmente lui, anche lui. 5 dischi da portare su un'isola deserta, non si può copiare, questa è la regola fondamentale di Rock Wave, a vostro piacimento. Chi tocca? Chi parte? Oh, parte Simone. Dai, parte Simone, so. Dai, parte Simone. Dai. Parto io? Vai, vai. Allora, come 5 dischi è difficile scegliere. 5 dischi, Allora, ovviamente il primo è quello dei Rashomon, perché mica per niente, chiaramente. Dopo tutta la fatica che avete fatto fare. Dopo tutta la fatica che avete fatto, cosa dice? Poi io lo porto e te, poi dopo si ascolta un po' insieme. Va bene, diciamo. Va bene. Però non lo possiamo portare tutte e due, ricordo. No, esattamente, una volta sola. No, io comunque in quanto amante di musica anni 60, 70, mi butterei subito lì, andrei a tirarmi fuori un bel Aero Experience di Jimi Hendrix, penso che sia il primo perché... Come mai Jimi nel tuo... Come mai Jimi? Perché a Jimi devo tutto, è stato lui che mi ha trasmesso comunque tutto quanto. Perché Jimi era un bluesman, anche se non era un bluesman effettivo, esatto. Ma lo era lo stesso, effettivamente. Esattamente, quindi direi che sia il primo, anche se... Diventa molto arduo scegliere quale prendere, però diciamo dai, prendiamo il primo. Che prima che tutti, porta il... Sono tutti meravigliosi. Sì, sì, certamente. E poi mi butterei ovviamente sui secondi che vanno a ruota e le Zeppelin, mi andrei a prendere un bel Zeppelin 2. Anche quello odora di blues, molto odora che di quello, blues. Esatto, che è quello un pochino più hard rock, diciamo, anche se lì ci hanno lasciato con una decina di album che... Non si sa quale scegliere, però. Beh, i primi quattro sono fondamentali. I primi quattro sono ovviamente fondamentali. Bonzo è fondamentale. A proposito di batteria. E dovrei metterli lì come proprio a occhi chiusi, tirare nessuno a caso. I primi quattro sono fondamentali, c'è poco da fare. Poi salverei subito, immediatamente, a ruota un bel disco dei Beatles. Quale? Potrei scegliere fra White Album o Sgt. Pepper. Giustamente la tua ragazza mostrava un di Janis Joplin. La mia ragazza, sì, perché lei sta Janis Joplin come io sto Jimi Hendrix. Quindi perfetto. Mi viene a dire porto un disco della Joplin, ma tanto non lo ascolterei, amore. Quindi... Ma una roba, se lui ha detto un disco dei Beatles, lo posso dire anch'io un disco dei Beatles? Sì, basta che non sia lo stesso. Basta che non sia lo stesso. Esatto. Sì, okay, sì, sì. Tu di Beatles cosa hai scelto? Revolver, abbiamo detto. No, pensavo fra, perché sono un pochino più complessi anche il Sgt. Pepper, però effettivamente anche il Revolver, quindi prendiamo Revolver. Vediamo Revolver. Qualcuno dice Sgt. Pepper, qualcuno dice che non è la Bibbia del rock, ma la Bibbia del rock è il White Album, l'album bianco. L'album bianco c'è un po' di tutto, c'è anche del blues, c'è un po' di tutto assolutamente. Sì, esatto, White Album, sì. Vabbè, abbiamo scelto Revolver, va benissimo. E poi dopo cosa potrei salvare? Ormai direi che gli ho detti, cosa ne ho detti? 3 più i Rashomon. E poi dai. Ah, c'è Matteo, abbiamo pescato Matteo. Sento qualcuno che sta arrivando in frequenza. C'è Matteo. Matteo, hola. Buonasera, come stai Matteo? Oh, ciao, buonasera, mi sentite? Sì, sì, assolutamente. Agostino ciao, è riuscito caro. A pescare Matteo. Quindi fai parte anche te del discorso dei 5 dischi su un'isola deserta, dai. Matte, ci devi dire 5 dischi che porteresti su un'isola deserta. 5 dischi su un'isola deserta. Esattamente, Matteo. Poi continuiamo allora, con Katie. Devo un attimo riprendermi perché stavo dormendo. Stavi dormendo? Perfetto. E allora... Fatemi pensare. Cinque dischi su un'isola deserta. Allora, prima di tutto ci porterei il disco che faremo fra qualche mese con i Rashomon. Ah, che non abbiamo detto. Bravo, bravo Matteo, questo non l'abbiamo detto. Il disco che non c'è. Esatto, il disco che non c'è me lo porto perché verrà molto bene. Poi fatemi pensare. Dischi fondamentali. Dio buono. Non è mica facile. Uno qualcosina. Voi cosa avete risposto? Loro hanno parlato. Ho parlato solo io, Matte, per adesso. Facciamo così. Sono andato a tingere tutto negli anni 60. Quindi facciamo così, sì, Matteo. Facciamo rispondere a Simone, poi conclude a Kiri, e dopo parli te un'altra volta. Ok, okay, intanto ci penso. Vai, Simone, finisci te. Ah, io quindi ne avevo detti quattro. Poi, guarda, proprio visto che c'era già la mia fidanzata che reclamava un po'. James Joplin, dai. Dai, prendiamo fuori Pearl. Va bene, Pearl. Pearl va bene, sì. No, per me sono tutti bellissimi, cioè per quello che li ho ascoltati e suonati insieme a te, perché ho suonato anche... Perché suona anche la tua ragazza praticamente. Sì, lei canta. Ah, lei canta. Potrebbe fare una cover di Janis Joplin, visto che ci sei qua. Ah, perché no, eh? Qua, guarda, diretta, sì, più avanti, dopo scegliamo un momento, facciamo una cover di Janis Joplin, va bene, ok, perfetto. Andiamo avanti, tocca a te. Quindi adesso. Gli ho già detto tutti. Ah, tu hai già 25. Ah, sì, allora. Già allora. Anime salve di De André. Come mai hai scelto quello, Kiri? Perché ti disco, piace? Sì, è l'ultimo periodo di De André, è l'ultimo disco che ha fatto. Sì, sì. Anime salve di De André, assolutamente. Il primo disco dei Rage Against the Machine. Ah, bello duretto. Assolutamente. Va bene. Un qualsiasi disco di Ravi Shankar. Come mai Ravi Shankar? Ti piace il sitar? Sì. Sai che è la prima volta in 7 anni che un musicista, un artista sceglie un disco di Ravi Shankar. Sì. Beh, è una cosa mica negativa, è una cosa positiva. Sì, sì, sì, no, questo... Sì. Un disco di Beck, adesso mi verrebbe da dire Sea Change, però... Ne ha fatti tanti. Ci potrei pensare. Ne ha fatti parecchi. Comunque, diciamo Sea Change, così... Beck è un musicista molto interessante, molto eclettico. Sì, assolutamente. Fa un po' di tutto. E poi? Un disco di Conte, non so quale, però ci dovrei pensare, un disco di Conte. Paolo Conte, benissimo. E poi per ultimo? Per ultimo... A te, tocca a te adesso, eh? Lui già ha detto i Beatles. Un altro disco dei Beatles? Un altro disco dei Beatles, non saprei quale. Bene. Matteo, la parte ritmica, visto che il basso non c'è, la parte ritmica della band, che cosa sceglie nei 5 dischi da portare su un'isola deserta? Adesso ci hai pensato. Allora, sì, ci ho pensato, ma grande confusione comunque. Va bene. Allora, mi porto il disco che faremo. Sì, quello abbiamo detto. Posso portare anche dei singoli, tipo? Dimmi che cosa. Allora, mi porto Insieme a te non ci sto più. Ah, come mai? Ci fermiamo a Caterina Caselli. Come mai hai scelto Insieme a te non ci sto più della Caselli? Bah, perché ultimamente lo ascolto molto spesso. E ha un bellissimo è un pezzo favoloso, molto, molto bello, secondo me. È un pezzo veramente favoloso. Poi mi porto il disco della messa a Parcello che ha fatto Palestrina. Bello, bellissimo. Il disco per il lavoro, insomma, il riposo e tutto quanto. Bellissimo, sì. Poi mi porto un disco dei Black Keys. Beh, quello sì. Mi anche porto l'ultimo. Brothers dei Black Keys. Non l'ultimo? L'ultimo non l'ho sentito bene. Quello che è in classifica in tutto il mondo adesso, America, oltre... non l'ho ancora sentito bene. Sono però stati sdoganati totalmente adesso, sono sulle orecchie di tutti, possiamo dire così. Dopo, molti anni comunque, di vita. Okay. Il mio preferito per adesso è Brothers. Benissimo. Quindi mi porto quello. Certo. E poi basta, me ne manca uno. Me ne manca uno e mi porto... Non lo so, posso chiedere un aiuto dal pubblico? Sono qua con amici. Voi cosa vi portate su un'isola deserta? Un disco? Così. Ah, siete con amici? C'è un gente di gruppo che sta sentendo la trasmissione allora? o no? Sì, sì, sì, no, infatti siamo fatti eccitati, che ascoltiamo la radio, parliamo alla radio nello stesso tempo. Il fatto è che lui dorme ovunque. Ah, dorme ovunque. Ah, mi hanno dato un consiglio bellissimo. Dimmi. Mi porto un disco che si chiama Strange Place for Snow, di questo trio di Esbjörn Svensson, che è un pianista svedese, che è morto qualche anno fa in un'immersione. E quindi sì, un trio, e se loro sono bravissimi, fanno, insomma, molto bello, consigliato, e me lo porto sull'isola deserta. Ah, benissimo, visto che ci sei al microfono, ti devo chiedere una cosa, la tua partecipazione alla band, cosa senti quando suoni il blues torrido degli altri due? Dai, dimmi qualcosa, Matteo. Beh, è la cosa più, è una delle cose più emozionanti. Che c'è? Insomma, che c'è suonare con Simon. Voi insomma ormai l'avete sentito Simon, all'inglese praticamente. Simone, Simon. Certo, Simon ovviamente. No, insomma, suonare con Simone è incredibile quando lui parte con questi volumi allucinanti. È insomma un grande trasporto. E quando Keir comincia a cantare, anche suona l'armonica, mi pare, che quindi canta e suona l'armonica. Keir è ovviamente meraviglioso, lo conosco da più tempo, quindi è un'emozione meno nuova, però ultimamente Keir quello che fa è balla, insomma si scatena sul palco, e questo è incredibile. Bene, bene. È molto molto bello, e suonare quindi il gruppo davanti insieme a queste persone è fantastico. È un trio che tiene il vostro, chiaramente, che tiene, perché sì, quando sì, suonate, sì, certo, la miglior cosa che esista è suonare continuamente, è bellissimo. È una medicina che va sempre bene. No, cosa dici? Mi senti? Cosa? Suonare è una medicina che fa sempre bene, assolutamente. Ovvio, sì. Decisamente. Ok, io ti ringrazio della partecipazione. Continua ad ascoltare la trasmissione fino a mezzanotte, non te ne andare. Dai, grazie a voi di questo coinvolgimento. È stato molto positivo. E prossima volta che verrete qua ci sarai anche te. Assolutamente sì, anzi verrò solo io la prossima volta. Perfetto. Okay. Io ti ritrovo da casa in pantofole. Esattamente. Macchiando popcorn. Ok. Vai, buon tutto, buona serata e grazie ancora. Grazie a te, Matteo. Ciao. Beh, è stato positivo, abbiamo sentito anche Matteo, quindi il terzo elemento fondamentale della band. Lui è proprio la spina dorsale. È la spina dorsale, sì, quando comincia a rullare, via, esatto, fa partire tutto. Adesso non so cosa ci sia in scaletta, beh, facciamo una cosa di questo genere, possiamo tentare di suonare ancora, cosa dite? Oh, sì, certo. Che cosa? Siamo qua. Io vi ho scombinato la scaletta, lo so che vi ho scombinato la scaletta, però sai, la dimensione di Rock Wave è quella di suonare, e poi abbiamo tempo, abbiamo lo spazio anche per la fidanzata, sì, più tardi, sì, entro mezzanotte fai una cover di Janis Joplin, questo è già assodato, quello che vuoi, non ci sono problemi. Ma infatti guarda, attendendo la cover di Tara, potevamo, non lo so, potevamo fare un altro pezzo io e Simon. Vai facciamo tempo. Fate tempo, dai. Facciamo tempo. Ok, fate tempo. Ok, adesso ci siamo, sì. Stanno predisponendo. Quante volte hai perso tempo, certo è stupido, ma ci pensi mai come prima, quando hai detto muoviti e siamo ancora qui. Fai svelto, e allora parlo di questo, rido di questo, vivo di questo tempo. Troppe cose da fare, da dire, non è mai stato facile cominciare. Una nuova estate sta bruciando, rimango assorto un attimo. Gli amici se ne vanno e allora parlo di questo, rido di questo, vivo di questo tempo. Me ne sono accorto che era già passato un aereo in volo, lascia il cielo sfregiato. E allora parlo di questo, rido di questo, vivo di questo. Pezzo bellissimo questo qua, molto delicato. Adesso fai una cosa, questo ritorna al piano, al toy, il piano giocattolo, sì, e me lo rifai sentire un secondo, un momento, un flash del piano giocattolo. Ma certo, che è molto significativo e molto bello. Tutto dal vivo, eh. Io scombino sempre le cose ai musicisti, ma questa è la caratteristica di Rock Wave. L'Agostino lo sa, però cioè è così. Vai, suona ancora? Che ti faccio? Qualsiasi pezzo che vuoi col piano giocattolo, è bellissimo. Vuoi che ti facciamo di seguito un altro pezzettino? Esattamente, di seguito un altro pezzettino ottimale. Simone ha benissimo nella posizione giusta e tu sei nella posizione giusta. Siamo persi. Oh. Ah. Sì, vai, vai. Ok. O la vorrei fare con... No, no. Odiavo papà, mi hai lasciato da solo su quella strada, avevo solo bisogno che qualcuno mi strappasse al gelo dell'inverno e mi dicesse no, e mi dicesse no, e mi dicesse che non siamo persi. Ti odiavo, amico, mi hai lasciato da solo in quella festa, avevo solo bisogno che qualcuno mi tirasse forte un calcio in culo e mi dicesse no, e mi dicesse no, e mi dicesse che non siamo persi. Oh, non siamo persi. Ho chiuso i conti, ho chiuso con te e ballo meglio sotto questa grandine. Lasciato da solo dentro a quel letto, avevo solo bisogno che qualcuno si stringesse a me per un momento e mi dicesse no, e mi dicesse no, e mi dicesse che non siamo persi. Voi, cari ascoltatori, non ci sono le telecamere, non c'è la possibilità di vedere, ma Katie si è quasi inginocchiato, anzi si è inginocchiato con questo pianeto piccolino da toy, da giocattolo. Però è un suono completamente diverso da Tempo. Tempo era una ballata acustica, questa è una ballata, ma una ballata sofferta, quasi psichedelica, possiamo dire, qua, con un suono, con una chitarra quasi distorta, anche se era una chitarra acustica di Simone. Esatto, sì, beh, questa è una ballata molto molto sporca, mentre Tempo era più dolce, è proprio delicata. È una ballata, nel senso, questa è una ballata sporca, dura, però fa parte delle diverse facce vostre, anche questa, chiaramente. Sì, sì, sì, certo, infatti non ci risparmiamo anche su queste cose. Esattamente, abbiamo molto. Lo utilizzate anche dal vivo il piano? Assolutamente, piccolino. sì. Certo, è più difficile farlo venire fuori perché con dei volumi come quelli che abbiamo noi. Sì, molto alti effettivamente. Però è delicato e interessante usare il piano, questo piano giocattolo. L'idea di questo piano giocattolo dove è nata, Katie? Da parte tua, visto che tu suoni le tastiere, o da parte di Simone o di Matteo che ci sta ascoltando? Beh, io sono un grande amante di Waits e del suo, diciamo, del suo pianismo. Si può dire del suo corrispettivo italiano, esatto. Vinicio Capossera. Esattamente. E direi che la prima volta che l'ho visto usare è stato proprio a Caposele, in un concerto. Sei innamorato subito dello strumento? Sì, sì. Sei andato a cercarlo? Assolutamente, l'hai comprato, l'ho comprato. L'ho comprato in Pennsylvania. Però. Ah, in Pennsylvania, quindi americano. Sì, sì. Ah, l'hai trovato in Pennsylvania, sei sì, stato sì. là. E in Italia purtroppo non si trovano. Ah, non si trovano. Cioè almeno non così. E io ricordo che una band è venuta qua a suonare e aveva un piano simile, però l'aveva comprato in Germania. Beh, piccolino comunque, così. In effetti in Inghilterra, Germania, America. America. Perché in Italia secondo te no? Non c'è un rivenditore. Non c'è un rivenditore. Non è un articolo che... Che tira praticamente sì. dal punto di vista musicale. Ma meglio così, così siamo in meno ad averci. Esatto. Esatto, giusto. È una frase acuta che tu hai... O peggio così, perché sarebbe uno strumento dedicato ai bambini, no? Quindi lascia anche un po' intravedere il fatto che ci sia una cattiva educazione musicale per i bambini. Cioè che non si usano gli strumenti per i bambini, secondo te? Ma cioè, se consideriamo che è un pianoforte mignon... In tutti gli effetti è un pianoforte, chiaramente. Mignon, ma è sempre un piano. Ah, io mi ricordo quando andavo a scuola si studiava il flauto dolce, il classico flautino di plastica... Adesso vabbè ci sono comunque, mettono i flauti barocchi e cose, però sempre flauto. Ma non c'è, adesso ci sono anche i computer purtroppo che hanno un po' rovinato il discorso di questo genere. Vero, anche quello. Però. C'è il progresso, il progresso è interessante, importante, però qualche volta il progresso leva via l'anima, cosa dici Katie? Assolutamente. Cioè avvantaggia cioè, certe cose, per esempio le incisioni, di mezzi i costi, tutto quello che vogliamo, però leva via l'anima. L'anima qualche volta serve di più dei costi o degli aggiuntivi. L'anima è più importante. Guarda, io sono assolutamente per il progresso, tutta la vita, la modernizzazione, certo. eccetera, però eccetera. Però effettivamente se fosse fatta spesso e volentieri, spesso e volentieri ci se ne serve senza oculatezza, si sì, dice? Sì, sì, sì. In modo appunto sì, non appropriato, diciamo pure. Sì, sì se ne serve perché se tutto ne serve. A un certo punto usi delle cose, non sai assolutamente come funzionano, né chi, quando sono venute fuori, solo perché è un trend o piuttosto sì. che... E alla fine perdi anche il valore di quelle cose che in realtà sarebbero molto... Sì, però dobbiamo, giustamente tu hai detto una cosa perfetta, però dobbiamo anche bene dire il progresso che ci ha consentito di mandare via il suono dappertutto, questo è chiaro. E infatti sono il primo a dire assolutamente. Perché una band come la nostra progresso. Può essere... senza nessun problema sentito in America e negli altri posti anche adesso in questo momento e questo è positivo, però d'altra parte c'è un rovescio della medaglia come in tante cose assolutamente. Poi il discorso, per esempio, io mi viene sempre in mente il discorso che hanno fatto i Radiohead, che hanno mandato su internet prima dell'uscita del disco il loro disco. È stata una novità, però qualcuno ha detto sì, ma erano i Radiohead, potevano farlo. L'ha fatto prima Prince in un giornale in Inghilterra, però sono tutte cose che fatte dai grandi, ma i piccoli, è un po' rischioso esattamente. Beh, sì, certo se sei un grande che fa un grande gesto, se sei un piccolo che fa un grande gesto, può darsi che non se ne accorga nessuno. Esatto, può darsi che non se ne accorga nessuno. Però noi ci accorgiamo sicuramente della musica vostra. Sentiamo un pezzo da disco adesso, che traccia hai, Agostino? La traccia numero 5. La sentiamo e poi ne parliamo, ok? Ok. Cade una goccia là, ora un'altra, piove già, piove già. Via di qua, via di qua. andato via. Certe cose, altre no. Altre no. L'ultimo bacio e poi Radio. Blu Radio. SMS 346 23 20 033. Blu Radio Veneto. Il Veneto come non l'hai mai sentito. Blu Radio. Rock Wave. L'onda del rock. Critico ha scritto: Black Jesus è una ballata per pianoforte, voce e sonagli. Cosa sono i sonagli? Che sonagli avete? Ah, ecco, quelli sono i sonagli. Fammi sentire un momento il sonaglio. Ecco, quello è il sonaglio, ecco, esattamente, chiarissimo. È un po' natalizio. Pianoforte, voce e sonagli, quindi è una ballata malinconica, che è un'apertura grande, cioè complessa, si allarga sulla religione e poi parla di altre cose. Sì, è una riflessione sulla religione molto intima, quindi risulta essere anche piuttosto criptica nel testo, certo. Ma mi sta bene, cioè, l'ho voluta scrivere così, proprio effettivamente non è che volevo dire platealmente delle cose, avevo bisogno di parlare della religione, anche della morte in un certo senso, anzi in un senso molto appunto serio, certo. Però avevo bisogno di farlo con delle parole che portassero, che non fossero le solite parole di immediatamente riconducibili a quella situazione, a quella persona, a quelle, per cui ho usato delle parole un po' che suonano un po' sibilline, ma che in realtà per me vogliono dire tanto. E la traccia, che numero è questa traccia del disco? La 5, è quasi è la metà. È proprio a metà, sì, no, ma infatti volutamente è la metà. Sì, sì, certo. quando arrivi nel cuore del disco, allora c'è questa svolta esattamente, è evidente. Certo. Adesso abbiamo un'altra svolta, suoniamo. Che cosa, ragazzi? Dopo ci sarà il posto anche per Tara, il suo pezzo, sì, su Genesis Opel. Ma adesso noi suonavamo una canzone recente. Dimmi. Che è stata scritta da poco, insomma. Sì, è stata scritta da poco, la suoniamo con piacere dal vivo, l'abbiamo provata, scosso anche un certo successo con questa canzone, mi è venuta molto bene. Adesso tentiamo questa versione acustica, non so come verrà, però si chiama Cerveza e non a caso anche questa canzone ha un tema religioso di fondo. Ok, va bene. Thank you. provinciale, gente da poco, esseri illuminati, una cerveza e poi dormirai da me. Cristo sulla strada, barcolla da un lato, cade nella polvere, si rialza, sputa, gli suonano i clacson, raccoglie la sua croce. Una cerveza per chi ci sa perdonare. Una cerveza per Cristo nostro Signore. Una cerveza per quelli che non tornano. Finale sorpresa, va bene per il DJ chiaramente. Un blues classico, posso dire questo, abbastanza classico questo qua. Mettiti davanti il microfono, che ieri sì, è abbastanza classico. Poteva ritornare ai vecchi amori, quel blues di una volta, proprio all'inizio di carriera, proprio all'inizio, lontano, lontano. È blues classico, assolutamente, con piccoli effetti al pianoforte, però lo schema è quello. Sì, sì, sì, lo schema di solito... Quando andiamo puristi su queste cose, andiamo puristi su fammi sentire cose. Quello strumento che hai usato là, come si chiama? Questo strumento? Shaker. Ah, lo shaker, ecco. Sì, sabbia. Sabbia dentro, c'è cioè sabbia e granelli, sì. Un po' di shaker, quando uno fa il barma è la stessa cosa, cioè la più o meno. Più o meno. Quindi ha dato questo effetto rurale, proprio roots, rurale, esatto. Possiamo dire, proprio di blues. Ok, è stato lui che ti ha spinto a fare questo pezzo oppure... No, in realtà lui non era neanche sicuro. Ah, non era neanche sicuro di questo pezzo. Di solito no, no. Diciamo che sì, con se poteva prendere un'altra onda, con Simon eravamo sicuri che andasse sul blues. Ok. Però vedi, cari ascoltatori, sì, abbiamo sentito, questo è un blues, anche gli altri pezzi erano blues, però Tempo non era un blues, era una ballad. Tempo sì, sì, certo. Quindi abbiamo detto tante facce che portano all'insieme di questo disco vostro. Sì, esatto. Matteo parlava di un disco futuribile che è pronto, che questo disco nuovo, futuribile, non è uscito da poco, questo è freschissimo, ma questo famoso disco futuribile di cui ha parlato Matteo, che direzione andrà, Kiri? La stessa direzione o si allontanerà dal blues classico per toccare altre strade? Non si può dire, va bene. Non si può dire. Cacchio, come non si fa a non dire? Non si può dire, non si può dire. È una domanda trabocchetto questa. Questa qui è una domanda di quelle che avevamo concordato. Esattamente. No, non è vero. Qui a Rockaway bisogna dire una cosa, Agostino lo sa. Non si ascolta dire, non concordiamo mai nessuna domanda. Se no, non è Rockaway. Vero, assolutamente. No, infatti, Maurizio. No, diciamocelo qua in diretta, in che direzione lo fareste? La verità è che non ce lo siamo detti neanche tra di noi. Ah, perfetto. Quindi il percorso, diciamocelo ora, adesso lo richiamiamo Matt. Guarda, dimmi. Io sarei andato verso Imola, sicuramente. E poi dopo, da lì, non so, vediamo un po'. Come va le cose. Esatto. Però direzione Imola. Chiaramente quella. Però la direzione giusta è quella che ci ha dato Alberto Pisco, e salutiamo, che è il nostro direttore artistico, che è venuto qua stasera, quindi lo salutiamo caramente. Grazie. E anche la Nicoletta, che è un'altra ascoltatrice affettuosa e che segue sempre gli speciali di Rockwave del mercoledì, e non soltanto gli speciali di Rockwave. Benissimo, sono le 23:41, noi io chiamerei la Tara, che cosa dici? Certo, sì. Tara, vieni a fare un pezzo di Genesis Oblique, poi faremo il gran finale vostro. Se qua in zona... Se è persa, se è perduta. Se è perduta, adesso la cerchiamo. E tu non hai, nelle tue corde non c'è Genesis Oblique, mi diceva Kiri. Kiri. Keire. Keire, pardon, Kiri. Keire, pardon. No, a dire la verità non ho mai approfondito Janis Joplin, Dio mio, la conosco, so che è una grandissima, eccetera eccetera, però non... Anche quella amava, si tuffava nel blues, un po', vabbè, certo, un po' etilico qualche volta, molto etilico. Sì, sì, beh, decisamente esatto, etilico. Sì. Decisamente potrebbe essere uno dei miei... Tutti i personaggi che io ammiro bene o male sono buttati nell'etilico. Nell'etilico, purtroppo. Purtroppo, sì. Purtroppo, a volte capita. In ogni caso, sì. era una grandissima. Adesso Tara è pronta. Che ci fai sentire da James Joplin? Sì, un qualsiasi microfono. Usa quello là del nostro vocalist. Ok. Ciao. In realtà, ciao, io non c'entro niente oggi con questa trasmissione. Non importa, non importa. Ti abbiamo captata. Però, se mi avete captata, vabbè. Sono la cantante di The Rose, tributo internazionale di Janis Joplin. Benissimo, ok. Verrai qua qualche volta a portare la band? Sì. Ah, mi piacerebbe molto. Ci possiamo mettere d'accordo dopo. Volentieri, sì sì. Diciamo che porto avanti il progetto con tanto entusiasmo e visto il mio grande amore per il blues, per il rock comunque degli anni 60-70. Bene. E per lei, questo per è lei. Fondamentale capirlo, perché non potrei omaggiare nessuno se non lei. Che cosa hai scelto di interpretare adesso? Beh, naturalmente, non avendo strumentazione qua, il brano sarà Mercedes-Benz. Ottimo. Perché ovviamente è a cappella. È a cappella, e sì, quindi è un suo gospel. Esatto, vedi, sì. Che c'è Jacqueline che prepara le mani. Oh. Ok. Vai, ma vai. Devo sentire qualcosa? No, no, devi sentire solo la tua voce adesso, vai. Ok. Tutti? Sì, anche lei, eh? Cosa fa? Io faccio la fotografia. Oh Lord, won't you buy me a Mercedes-Benz? My friends are dry portions. I must make amends. Work all my lifetime, no help from my friends. So Lord, won't you buy me a Mercedes-Benz? Oh Lord, won't you buy me a color TV? Dying for dollars, he's trying to find me. I'll wait for delivery, and it's down till 3. Sailors want to bear me recolor TV. All hordes want to bear me when I'm on the town. I'm counting on you, Lord. Please don't let me down. Prove that you love me and abide next round. Warriors want to bear me when I'm on the town. Everybody, oh Lord, want to bear me in Mercedes Fields. My friends are drag pushing. I must make amends. Work hard all my lifetime. No help from my friends. Sailors, won't you buy me in mercy? Let's hear. Brava Tara, brava. Thank you. Solo a Rockaway succedono queste cose, però tutto in diretta, ragazzi, non c'è niente di prefabbricato, di precostituito. Io tac, abbiamo captato così la voglia, abbiamo sentito Jenny Sopli, grazie. Benissimo. Ok, sono 23:46, tutto in diretta. Adesso parliamo ancora di voi e abbiamo un quarto d'ora per finire suonando, chiaramente. Però c'è un altro pezzo da disco, mi diceva Agostino, che la traccia numero 7, la sentiamo, ok? E poi ne parliamo, certo, ok? Certo. Vite splendide ci vivono intorno, in partenza o ritorno, ogni attimo bruciano fredde fiori. Eccoci qua, sì. Questo è il pezzo che abbiamo scelto, Agostino, per lanciare il disco, almeno noi della redazione, io ed Alberto. Vite splendide, è un pezzo molto bello, molto cantautorale, come tu dicevi a microfono spento. Esatto, sì. Che sì, entra nel disco, però ci entra, però ecco, non dico forzatamente, però ci entra bene, però no, no, insomma, beh, oddio, è una chiave di volta anche questa, ci sta, anche ci che sta, sia ci un sta. Po' forzatamente, no, è meno torrido, se utilizzato questo superlativo rispetto a tutti gli altri pezzi, fa parte del trend di tempo, fa parte quel genere abbastanza di ballata praticamente, ci vuole un momento di riposo. E esatto. Dopo ci scatena un'altra volta il discorso musicale. Esatto, una cosa che nel disco magari siamo riusciti a mettere, nel live stiamo tentando di mettere. Vita non ci va dentro nel live. Ancora no. Ancora no. Purtroppo per ora abbiamo fatto solo dei live molto molto... molto duri, duri molto nel senso duri, potenti. Molto potenti. Potenti. E a proposito di live potenti, se vi ricordate le date, se avete delle date... vicine da citare. Certo, io vorrei appunto cogliere l'occasione per citare una data piuttosto vicina e piuttosto importante, che è il 15 aprile alla Tenda di Modena. È un concerto dove viene presentato il collettivo musicale di cui noi facciamo parte. Lo Scafandro praticamente. No, lo Scafandro è la nostra etichetta. Il collettivo musicale di cui facciamo parte, che è modenese, si chiama Vulcanofono. Ah, ok. E fanno parte altri artisti, altri gruppi come Ed... Angus McCog, Setti. Quella serata lì sarà una serata di presentazione di questo collettivo musicale, con anche un concerto che diciamo di un gruppo più famoso degli altri, che sono la Classic Education. Sì, vero. Chiaro, sono il gruppo di punta. Di punta, esatto. Del collettivo. Comunque in questa serata suoneremo anche noi. Sarà una bella serata. Sarà una serata con un sacco di situazioni, eventi, perché non ci saranno solo i gruppi, ma ci saranno etichette, ci saranno banchetti vari, di vintage. Quanto durerà? Una serata solamente o più di una serata? Sarà una serata sola, però partirà molto presto. Perché quindi una giornata? Una mezza giornata. Sì, dal 15 aprile. Per 15 dire. Aprile, se siete nelle parti di Modena e volete venire in tenda, si presenta il Vulcanofono. La serata si chiama Vulcanology. E quindi praticamente salirete tutti sul palco? Suonerete tutti sì, assieme. Ci alterneremo. Poi con una finale tutti assieme oppure sempre staccati? Il finale sarà appunto degli Classic Education. Cioè, e prima, esatto, prima ci saranno Rashomon, Setti, Ed, Angus McCall. Benissimo, allora ricordiamo la formazione di Rashomon, visto che ci siamo, vai. Tu suoni oltre a allora, cantare? Io sono Keire, canto, suono il piano e altri cazzabubboli. E più l'armonica? Sì, l'armonica, la diamonica. Una specie di piccola tastiera, insomma. Sì, una piccola tastiera a fiato che era solo... Perfetto. Ok. Simone? Simone Simon. Esatto, Simone. Quante chitarre, Simone? Chitarra, cioè ne suono una per volta. No, di solito ne suono sempre solo una, elettrica, alla quale sono molto affezionato e che dà, diciamo, il sound al disco e ai Rashomon stessi. E quando si va comunque a fare uno, diciamo, pseudo acustico, che poi diventa sempre una sorta di elettrico, perché comunque, come si sente anche da qua, usiamo piccoli amplificatori che distorcono sempre un po' il suono. Hai due piccole casse, due piccoli amplificatori questi qua? Sì, uno che lo uso io, uno che lo usa Keire. Keire. Che sono amplificatori a pila, che praticamente accendendoli hanno il suono e mettendoli ovviamente al massimo del volume saturano e distorcono. Perfetto. Essendo un piccolo wattaggio, 5 watt, quindi a volumi bassi si possono ottenere queste sonorità. Abbiamo anche registrato con questi oggetti. Fantastici oggetti, sì sì. Benissimo. E poi sì, chitarre di metallo. Quella che è qui davanti è bellissima. È cosiddetta, tu all'inizio di trasmissione l'hai evidenziata come, mi ricordo più, come la scuola pasta. È la scuola pasta, esattamente. Comunque diamogli un nome, si chiamano chitarre resofoniche perché hanno dentro un piatto in alluminio, che è quello che poi dà comunque il suono in metallo, oltre comunque a tutta la cassa, in acciaio, esattamente. E poi c'è Matteo che ci sta ascoltando, spero ancora. E poi c'è Matteo che suona la batteria la spina dorsale dei Rashomon, che suona la batteria come un dio un po' vendicativo. Abbiamo parlato di Led Zeppelin, Bonzo Docet. Dio molto arrabbiato. Bonzo Docet, possiamo citare Bonzo, grandissimo Bonzo. Che è un batterista fuori da ogni regola, come Kate Booker, fuori da ogni regola. Ok, adesso dovete dire una cosa: come riesco ad avere in possesso del disco? Come lo possiamo avere il disco vostro? Allora, il nostro disco è scaricabile. Andrà, intanto il titolo. Vabbè, andrà, il disco dei Rashomon che si chiama Andrà tutto bene. Perfetto. È scaricabile da iTunes. Mm. Lo potete trovare ai nostri concerti. E se capitate a Modena, da Feltrinelli o da Dischi in Pazza. Quindi in piazza. Si può trovare. O da Renzo. Renzo, che è un altro. O da Renzo, che è un altro negozio di strumenti musicali. Ci sono ancora i nostri dischi, sì. Fortunatamente. Qualcuno esiste ancora. Oltre ai vostri concerti, chiaramente. Sì, i nostri concerti. Tra l'altro, il più recente dei nostri concerti, al di là di quello del 15 aprile, sì, è proprio venerdì, cioè dopodomani. Sì, dove? Alla fermata 23 di Camposanto, vicino Modena. Ok, si chiama fermata 23, un club praticamente. È un circolo. È un circolo, perfetto. Ricordiamo il vostro sito. Il nostro sito è Rashomon.com, Rashomon Music, scusate, Rashomon Music, tutto attaccato.com. E lì ci potete trovare tutte le recensioni, video, foto e quant'altro. Recensioni positive, io ho letto, sono tutte positive. Si sono molto positive, sì, siamo stati molto contenti. Pensavamo che fossero meno indulgenti. No, sono stati indulgenti in senso positivo, per ripeterci. No, veramente, avete, come giustamente dicevi, a microfono spento, è stata una spinta notevole questo disco. Vi ha cominciato a far conoscere. Esatto. Al di là esatto. Del premio d'olio, che è stato importante, però via, è stata positiva. Sì, è stata una bella. Sì, è stato un disco che comunque ha aperto delle strade. Quindi anche la sofferenza, anche dal punto di vista economico per farlo, però vi ha portato qualche vantaggio. Non tutti ripagati, siamo d'accordo, però è importante farsi vedere, fare che un disco appaia nei negozi, è una cosa bellissima secondo me, un grande forza interiore, no? Cosa dite? Assolutamente, sì. Siamo tutti concordi. Poi un disco che dice andrà tutto bene. Già il titolo dice tutto, andrà tutto bene, quindi vuol dire che le cose sono state positive, al di là della fatica, al di là di tutto il resto. Quindi ripetiamo, il disco si può trovare dal nostro sito oppure nei vostri concerti. Esattamente, oppure da Fangareggi o Dischi in Piazza o Renzo. Sono i negozi dove si possono trovare. Benissimo, abbiamo concluso, sono le 23:57, abbiamo finito la cavalcata bellissima. Ringraziamo Agostino che è stato il nostro Grazie regista. Mille. Grazie Agostino. Ringraziamo la band che è venuta a trovarci stasera, che ha fatto un po' di viaggio da Modena, bastardo, piccola città, bastardo posto, come diceva Francesco Lucci, ma ancora una piccola città, bastardo posto, ancora adesso oppure no? Cosa dite? Ma io direi che si possa ancora attribuire un po' questo. Eh sì, questa immagine che ha dato Francesco Cuccini nel mirabile album Radici. Esatto. Sì, perché comunque rimane sempre una piccola cittadina e sì, c'è tanta gente bella però. Ecco, è importante. Esattamente. Con cosa finiamo, ragazzi, stasera? Beh, questa è la domanda più difficile. E con quel pezzo finale. Proviamo a improvvisare un Denti storti. Ecco. Ma certamente, mio caro. O se no, cosa avevamo ancora nell'arsenale? Avevamo un Meglio rinunciare, ma l'abbiamo fatta sentire. L'abbiamo messo sul disco. Ma facciamo un bel Denti storti. Un altro, un blues un po' alla Capitan Beefheart, può essere? Ah, madonna, buon Capitan Beefheart. Come si può dire, Frank Zappa Docet, ecco, vediamo. Esatto. Un po' di tutto, grande sì. Capitan Beefheart, che se n'è andato non da molto tempo fa. Guarda, per fare questo pezzo mi metterò anche la maschera. Ah sì, è vero che hai utilizzato prima di partire da diretta. Grazie e buonanotte a tutti. Dici, si sente? Perfetto. Ok. Dentro quello che puoi, perché il mondo non ci vuole bene. Vedrai che poi ci godremo la vita insieme. Hai denti storti, fatti per urlare. Denti storti, fatti per strappare la carne. Denti storti, giusti per te. Vieni amore, fatti mordere. Ma ho un amico giunto qui dalla Svizzera, porta cicatrici di battaglia. Sbattiamo contro, e tra buonanotte e tra buongiorno ci presentano alla fine il conto. Hai denti storti, fatti per urlare. Hai denti storti, fatti per strappare la carne. Demo la vita insieme. Hai denti storti, Blu Radio. Blu Radio. SMS 346 2320 033.